Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: molta Italia, ma anche molta Europa. Due infatti gli elementi principali, assieme alle tensioni dei mercati che continuano a concentrarsi su Irlanda, Portogallo, anche Spagna, e con una leggera preoccupazione in più anche sull'Italia. Ma dicevo, al di là delle tensioni dei mercati finanziari, dell'euro che va a 1,36,5 sul dollaro, del franco svizzero che va a record sul dollaro, dell'oro che resta sempre vicino a record, oggi ci occuperemo della parte economica dell'intervento del Presidente del Consiglio Berlusconi, sulla poi avremo nel corso della programmazione anche altri approfondimenti a partire dalle relazioni e degli interventi dell'opposizione e poi anche il voto sulla fiducia. Ma dicevo, la parte economica, molti di voi già l'hanno capita e ha avuto come anticipazione dei nostri GR. Sostanzialmente Berlusconi ha detto che si arriverà con il suo governo a un calo delle tasse, e poi sempre sul fronte delle politiche economiche che vi sarà verrà fatto il ponte sullo Stretto di Messina e conclusa la Salerno-Reggio Calabria. Questi gli interventi e principali, sempre però all'interno di un rigore sul deficit, su cui anche qui il Presidente del Consiglio è stato molto chiaro. La domanda che ci porremo è in realtà come realizzare queste opere mantenendo il deficit sotto controllo, anche perché l'intervento del Presidente del Consiglio è arrivato nel giorno in cui da Bruxelles, e questa è la parte europea, invece la Commissione europea ha presentato quello che è il progetto di riforma del patto di stabilità, cioè il patto che lega tutti i paesi, che vincola tutti i paesi che aderiscono all'euro, e in sostanza vuole un patto meno accondiscendente verso chi sfora i deficit e ha debiti alti sopra il 60%, e quindi inizierà poi una trattativa. Ne abbiamo già accennato ieri: la Germania vorrebbe automatismi nelle sanzioni molto dure, che costerebbero all'Italia, se passasse quel concetto, obbligherebbero l'Italia a ridurre il debito di 130 miliardi nei prossimi 3 anni, la Francia di 80, e quindi una cifra enorme. L'Italia e la Francia vorrebbero dei meccanismi meno automatici, ma insomma il tracciato è però quello: sanzioni più forti, più stringenti, più pregnanti per chi ha debiti alti e non tiene sotto controllo i conti pubblici. Ecco, è chiaro che diventa più difficile poi anche per l'Italia avere delle politiche economiche se l'indicazione che politiche economiche espansive, come si chiamano in gergo, se la linea che arriva da Bruxelles è invece di segno opposto, cioè di tenere sotto controllo i conti pubblici. Parleremo della parte economica dell'intervento di Berlusconi nella prima ora del programma, della parte invece che riguarda Bruxelles nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri sms. Da segnalare anche la borsa che perde a Milano più che altrove: meno 0,90% Milano, meno 0,6% Parigi, mezzo punto percentuale Francoforte, sempre di calo, e Londra perde mezzo punto percentuale. L'America perde lo 0,3%, i titoli bene Saipem più 2,30%, negativo del 4% il Banco Popolare, dopo il giudizio di ieri di Moody's, meno 4% anche la Popolare di Milano, meno 2,5% UbiBanca, meno 1,7% Buzzi Unicem come Intesa San Paolo e Unicredito, oggi deboli tutte le banche. 1,5% lo perde anche A2A il Monte dei Paschi, l'1,4% è nelle Lottomatica, l'1,2% in Pregilo e Azimut, ma anche Ansaldo, STS, le Generali. Infine 1% percentuale lo perde Terna e anche Autogrill e Fiat. Allora, questo per quello che riguarda i temi principali di questa giornata. Ripeto, sul Banco Popolare vedo già dei messaggi: è il giudizio di ieri di Moody's, contestato tra l'altro dal numero uno del Banco Popolare Saviotti. Vediamo che cosa poi si potrà capire anche dalla replica. La replica è appena venuta del Presidente del Consiglio. Vi faremo anche ascoltare, se ci riusciamo, verso le 18, l'intervento del leader del PD Bersani, dei passaggi chiaramente, perché sarà praticamente in contemporanea in diretta con il programma. Le notizie in breve. E partiamo come sempre in queste settimane dall'oro, dall'argento, insomma ha ritoccato il record a 1.312 dollari l'oncia l'oro e l'argento anche a 21,90 dollari l'oncia. Perché, molti ci chiedono, ma insomma sono beni rifugio soprattutto l'oro e di solito oro e dollaro si muovono in controtendenza, cioè è una valuta americana molto debole e comunque che è tornata a essere debole. Beh, spinge gli investimenti sull'oro. Dicevamo appunto della valuta americana, insomma l'euro continua a viaggiare sopra quota 1,36, non si vedeva dal 15 aprile scorso. Il franco svizzero ha segnato un nuovo massimo storico sul dollaro, per la precisione a 0,9735. E sul fronte di quello degli spread, cioè delle differenze tra i rendimenti delle obbligazioni tedesche e quelle degli altri paesi, che è il termometro più importante per capire quanto il mercato valuti a rischio un paese, ebbene, purtroppo sono aumentati sia quelli di Portogallo e Irlanda, tra l'altro l'Irlanda praticamente va quasi a un va a record. Dopo, la vicenda è quella dell'Anglo-Irish Bank, ne abbiamo parlato a lungo ieri. La Spagna va a 199 punti, cioè l'1,99% è la differenza tra quanto rende un'obbligazione tedesca e quanto rende l'equivalente obbligazione spagnola. La Grecia è a 865 punti, cioè all'8,6%. Per dare la classifica, l'Irlanda è al 4,5%, quindi alta, altissima. E il Portogallo è al 4,3%, anch'esso è uno spread molto molto alto, molto forte, e praticamente insomma siamo a tre volte il livello italiano, che comunque purtroppo è salito all'1,72%, è il livello più alto dopo quello storico, il record raggiunto a giugno, nel pieno della crisi greca, dell'attacco all'euro e all'area euro, arriviamo all'1,78%. E non a caso oggi l'asta dei BTP italiani a 3 a 10 anni ha visto rendimenti un po' in rialzo, sia a 3 che a 10 anni. Il rendimento anno lordo di quello a 3 anni è del 2,2%, quello a 10 anni è del 3,90%. Intanto sale a 30 miliardi almeno di euro il conto per gli irlandesi per salvare l'Anglo-Irish Bank. Ieri vi abbiamo dato la proporzione, visto che il PIL irlandese è circa un decimo di quello italiano, è come se noi dovessimo pagare 300 miliardi di euro per salvare una banca. E Lisbona dovrebbe riuscire a approvare oggi le nuove misure fiscali. Il Partito Socialista, che ha il governo in Portogallo, ha detto: attenzione, se non passerà la manovra, che è una manovra di stretta fiscale per rimettere a posto i conti, la situazione potrebbe essere drammatica. Questo nel giorno in cui la Spagna affronta il primo sciopero dell'era Zapatero e ancora picchetti di lavoratori di ingresso alle fabbriche, file d'attesa alle fermate degli autobus. Nessuna cifra ufficiale, ma insomma sembra un'adesione fortissima. I sindacati parlano di un tasso di adesione vicino al 100% nell'industria siderurgica e nel settore auto. Del via libera di Bruxelles alla stretta sui debiti pubblici più elevati e al rafforzamento delle sanzioni per i paesi non virtuosi, ripeto, parleremo nella seconda ora. La Commissione Europea comunque ha adottato oggi un pacchetto di proposte legislative per riscrivere il patto europeo di stabilità. E poi ci occuperemo anche del più avanti del DDL lavoro, quello che il Colle aveva rinviato alle Camere perché chiedendo un nuovo esame, soprattutto per la parte sull'arbitrato, e cioè era intervenuto il Presidente della Repubblica per, diciamo, opporre un rilievo alla norma sull'abitato, che invece è passata ed è tornata a essere uguale a quella bocciata dal Quirinale, ossia che si decide di ricorrere all'arbitrato preventivamente 30 giorni dopo l'assunzione. E a settembre, secondo il Centro Studi Confindustria, frenerà quello che è il recupero della produzione industriale, più 0,1 su agosto, e per cui il recupero, se saranno confermate queste cifre della produzione industriale, sale all'11,2%, ma comunque siamo sempre a un 18% in meno rispetto ai livelli pre-crisi, quindi del luglio del 2008. Va bene, partiamo con il primo tema di approfondimento. Mentre poco fa Federmeccanica, Film e Wilm, quindi Scienza da Fiume, hanno raggiunto l'accordo sulle deroghe al contratto nazionale dei metalmeccanici. Il contratto del 2009 non è stato firmato da FIOM, che quindi non ha partecipato alla trattativa sulle deroghe, come era immaginabile. Dicevo, molta attesa, soprattutto politica, per l'intervento del Presidente del Consiglio Berlusconi alla Camera, intervento che abbiamo seguito, chi ha avuto modo, anche in diretta, però intervento che, al di là dell'elemento politico, di tutti i ragionamenti di cui sono riempite le pagine dei giornali in questi giorni, ha anche un aspetto economico. Dico subito che, da quello che abbiamo sentito, non vi è stato alcun riferimento al ministro dello sviluppo economico, che resta uno dei nostri temi, resta anche il nostro sondaggio. Però cerchiamo di capire che cosa ha promesso e indicato come linee guida dell'azione di governo il Presidente del Consiglio per quello che ha a che fare con le politiche economiche. Allora, vi prego, accettiamo un ragionamento così sui numeri, sulle possibilità e non sulle scelte, le volte preconcette, di carattere ideologico o politico. Lo dico anche chi scrive al 349-238-6666. Ha detto Berlusconi: la crisi l'abbiamo affrontata con rigore e credibilità, da noi sono arrivate scelte giuste senza commettere gli errori di altri paesi, e abbiamo evitato licenziamenti di massa. Questa è la fotografia, diciamo, del passato. Sul futuro, l'andamento dell'economia è migliora di mese in mese, e questa mattina ha ricordato il Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri ha esaminato un tasso di crescita intorno all'1,2% per il 2013, però, il che vuol dire che nel 2010 faremo 1,1, e nel 2011 l'1,3% comunque la crescita stimata. Nel 2010 il Consiglio dei Ministri è stato più ottimista di altri centri, penso al Fondo Monetario, anche al Centro Studi Confindustria, comunque stima una crescita all'1,2%. E poi i temi più importanti sul futuro. Ripeto, il Presidente del Consiglio ha detto che l'Italia ha affrontato la crisi meglio di altri paesi. Sappiamo che non è questa l'opinione della Presidente di Confindustria Marcio Gaglia. Ricordate l'intervento lo scorso fine settimana a Genova, ha detto che l'Italia ha subito la crisi come altri paesi, e illustrando poi un tasso di recupero nostro che è oggettivamente più basso della media europea. L'Europa quest'anno farà più 1,7, lasciamo stare la Germania, noi faremo più 1,1, più 1,2. Comunque, il futuro. Allora, sul deficit netto, diciamo, il giudizio del Presidente del Consiglio, che è assolutamente in linea con quello che è comunque l'atteggiamento e l'azione del Ministro dell'Economia Tremonti. Sentiamo Berlusconi sul deficit. Questa strategia e questi capisaldi hanno come obiettivo la crescita economica e come fondamento irrinunciabile il rigore delle nostre finanze pubbliche, nella consapevolezza che non più può essere crescita duratura ed equa senza stabilità dei conti pubblici. Dobbiamo essere chiari con i nostri cittadini. Non esiste una scelta tra rigore e crescita. L'una tiene l'altra e viceversa. Il deficit pubblico non crea crescita ma solo diseguaglianza e povertà delle generazioni future. E questo per un paese che avrà quest'anno un deficit al 5-2%, devo dire un deficit più basso il nostro, anche se molto alta la cifra, la percentuale più bassa rispetto alla Gran Bretagna che ce l'avrà all'11,5%, alla Francia che ce l'avrà all'8,2% e anche alla Germania che ce l'avrà al 5,7%. E comunque, da un lato, politica del rigore, e l'avete appena ascoltato in questo passaggio, dall'altro però il calo delle tasse entro la legislatura senza che questo però crei un nuovo deficit. L'obiettivo della maggioranza di governo è ridurre la pressione fiscale e disboscare la grande giungla di un sistema fiscale che è praticamente rimasto invariato nelle sue parti fondamentali fin dalla riforma dei primi anni 70. Tenendo conto delle esigenze e delle compatibilità del bilancio pubblico, sulla base della lotta all'evasione fiscale e del dividendo della crescita, senza creare ulteriore deficit, il governo intende pervenire entro la legislatura al varo di norme che consentano una graduale riduzione della tassazione su famiglie, sul lavoro, sulla ricerca. Allora, un po' di pazienza anche a chi dice: ma cosa fate? Riportate le dichiarazioni di Berlusconi senza commenti o critiche. Insomma, l'informazione critica ormai la fanno solo i comici. Vabbè, abbia un po' di pazienza. Prima facciamo sentire cosa ha detto il Presidente del Consiglio e poi cerchiamo di commentarlo. È difficile fare il contrario. Allora, Guido Gentili, ex direttore del Sole 24 Ore, attualmente editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, Guido, partiamo da questo aspetto, poi arriviamo anche alle altre annunci sulle infrastrutture. Ma in sostanza a me sembra, poi mi sbaglierò, ci mancherebbe, che l'analisi possa partire da qui. Cioè, da un lato Berlusconi riconosce, non poteva fare altrimenti, perché c'è un ministro come Tremonti che del rigore ha fatto il suo cavallo di battaglia, che non si può imbarcare altro deficit. E lo fa nel giorno in cui da Bruxelles passa un progetto di riforma della Commissione Europea molto più duro sui paesi che non rispettano il rigore nei conti pubblici, che vuole avere sanzioni automatiche e via discorrendo. Dall'altro dice: ridurremo le tasse e poi sentiremo anche il passaggio sulle infrastrutture. Come si riesce a fare questo, o quanto stretto è il sentiero, come si dice in gergo, visto che avremo comunque una crescita tra l'1,1 e l'1,2%, che, come ricordava la Presidente di Confindustria Marcegaglia, è più bassa della media europea? Ma il sentiero non è stretto, è strettissimo. Noi abbiamo un problema, da un lato, di contenere il debito e il deficit pubblico, in particolare con un occhio in più su quello che è il livello del debito, come ci è imposto adesso dalle nuove regole che arriveranno da Bruxelles. In secondo luogo abbiamo un problema di crescita. Siamo il paese che cresce in Europa, a parte, se non ricordo male, la Spagna, che cresce meno di noi in questo momento. Sì, è l'Irlanda, e siamo il paese che ha un ritmo di crescita inferiore rispetto alle altre, non solo rispetto, come ricordavi tu, rispetto all'1,7% medio europeo, ma addirittura per non parlare della Germania, che siamo addirittura a un'ipotesi del 4,2-3%. Quindi noi siamo 1, qualcosa, è un ritmo di crescita insufficiente. Di questo passo torneremo ai livelli del 2007, cioè ai livelli del prodotto interno lordo pre-crisi, intorno al 2013-2014. Questo non ce lo possiamo permettere, e quindi è evidente che il sentiero è molto stretto. Dobbiamo tenere da un lato fermo il controllo della finanza pubblica, ma dall'altro dobbiamo attivare delle politiche, che penso per esempio a quella al fisco, che ci consenta di crescere, perché questa è una morsa dalla quale noi dobbiamo uscire. Sì, faccio notare che non c'è stato nessun riferimento, non so nemmeno se fosse il caso, però alla lotta all'evasione, perché insomma da qualche parte i soldi vanno trovati, e forse se non aumenti le tasse, anzi se le vuoi abbassare, deve incassare di più, spendere di meno, ma anche incassare di più. Però c'è stato questo riferimento alle tasse. Allora, sappiamo, tu sei anche un analista fine di politica, per cui conosci benissimo quello che può essere anche così lo zoccolo duro del ragionamento politico di Berlusconi, e sai che sulle tasse lui ha costruito, il Cavaliere ha costruito tutta la sua strategia degli ultimi 15 anni da un punto di vista proprio elettorale e di identità anche partitica. Ma insomma, questo appello a, o questo in qualche modo ammissione che le tasse verranno ridotte da qui alla fine legislatura, ti sembra più un modo per ricordare l'identità di Forza Italia, attualmente Popolo Libertà, o anche realisticamente un progetto di politica fiscale? Dunque, mi pare che Berlusconi oggi abbia praticamente ripreso testualmente quelle che sono le parole del programma elettorale con il quale ha vinto le elezioni nel 2008, cioè ha detto che verranno ridotta la pressione fiscale entro la legislatura, e se non ricordo male ha usato le parole su famiglie, lavoro e ricerca, fermo restando appunto che questo non potrà essere fatto appunto con un aumento del deficit, e facendo riferimento anche al meccanismo del quoziente familiare, anche questo inserito diciamo nel programma elettorale del 2008. Quindi da questo punto di vista non c'è nessuna novità. Il problema è come scendere, come portare, oggi la pressione fiscale complessiva è intorno al 43,2%, cioè siamo ai livelli più alti mai raggiunti in Italia, che ci riportano indietro nel tempo ai tempi di quando fu introdotta per l'entrata nell'euro la famosa eurotassa, quindi siamo intorno ai tempi del governo Prodi del 1997. Dobbiamo far scendere questo, non possiamo usare ovviamente non possiamo fare una politica espansiva senza toccare le tasse, quindi dobbiamo tagliare le tasse. E il discorso dell'evasione, effettivamente nell'ultimo anno e mezzo sono stati ottenuti dei risultati notevoli sul fronte dell'evasione, almeno stando a quelli che sono i dati ufficiali diffusi delle entrate. Il problema è che diciamo era stato prospettata la possibilità che gli introiti della lotta all'evasione sarebbero andati diciamo alla riduzione delle tasse. Questo finora non è avvenuto. Se Berlusconi vuole arrivare diciamo a mantenere la promessa fatta nel 2008 e ribadita oggi, dovrà fare questo, cioè tagliare le spese da un lato e usare gli introiti della lotta all'evasione fiscale per ridurre le tasse. E questo è appunto, queste sono la scilla e caridile del sentiero strettissimo come tu individuavi. Dopo il metro e la pubblicità, un ultimo passaggio che ti chiederò di commentare, che riguarda le opere infrastrutturali. Ora, noi sappiamo tutti che le opere infrastrutturali, visto che spesso si parla della crisi del 29 come così parallelo con questa crisi, le opere infrastrutturali servono perché generano, sono anticicliche, generano anche occupazione, fanno crescere il PIL e quant'altro. C'è anche un piccolo siparietto che faremo ascoltare, perché ormai la Salerno-Reggio Calabria diventa l'eterna incompiuta e ridono tutti a un certo momento nella Camera, sia l'opposizione che il governo, che lo stesso Berlusconi, anche se non lo sentirete. Comunque, meteo, pubblicità e poi quest'ultimo passaggio per ora, 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. :17 di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Alcuni ascoltatori contestano la definizione di Guido Gentili di una lotta all'evasione che ha avuto risultati straordinari, ma io devo dire insomma che i risultati ci sono stati nella lotta all'evasione. Abbiamo visto l'Agenzia delle Entrate, abbiamo parlato molte volte anche con il Presidente Commercialisti di questo nuovo redditometro, insomma non so se siano straordinari o meno, ma sicuramente stanno aumentati gli incassi dell'erario. Detto ciò, abbiamo ancora un'evasione fuori controllo, come ricorda anche il Centro Studi Confindustria, imbarazzantemente alta, 200 miliardi di euro che non vengono tassati, che sfuggono all'erario, con la conseguenza che mancano 90-100 miliardi alle casse dello Stato ogni anno. Detto ciò, sentiamo un altro passaggio dell'intervento del Presidente del Consiglio alla Camera che riguarda l'economia, ossia il progetto per il ponte sullo stretto, che insomma, è una cosa a cui Berlusconi tiene. Vedo alcuni messaggi che dicono ma non sarebbe più utile utilizzare questi 6 miliardi .3 per aiutare le piccole e medie imprese del nord. Non lo so, comunque, o meglio, una mia idea ce l'ho, ma è irrilevante. E sentiremo anche il passaggio in cui Berlusconi dice: nel 2013 completeremo la Salerno-Reggio Calabria, la famosa Salerno-Reggio Calabria. Ridono tutti e non si può vedere in radio, chiaramente, ma ride e sorride lo stesso Berlusconi. Il Sud ha bisogno di regole, di rispetto delle regole e di un'adeguata dotazione di infrastrutture materiali e immateriali. Il piano per il Sud dovrà rispondere parallelamente a queste fondamentali esigenze. Dal 2002 al 2009, su un valore di opere approvate dal CIPE già cantierate, pari a circa 68 miliardi di euro, sono stati triplicati gli interventi nel Mezzogiorno. Nei prossimi tre anni saranno investite nel Mezzogiorno le risorse per circa 21 miliardi di euro, pari al 40% degli investimenti complessivi in tutta Italia, raggiungendo nel 2013 alcuni risultati importanti. Ne cito qualcuno: il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ci sono lavori in corso per sopperire alla carenza di iniziative che si è verificato durante 5 anni dei governi della sinistra. Il sostanziale avanzamento di opere quale l'autostrada Telesina, l'asse autostradale Ragusa-Catania, la superstrada ionica 106 e il raddoppio della superstrada Agrigento-Caltanissetta, le statali Olbia-Sassari e Carlo Felice, la rete metropolitana campana. Entro dicembre sarà pronto il progetto esecutivo del ponte sullo stretto di Messina. Allora, Guido Gentili, no, a me ha fatto sorridere che lo stesso Berlusconi, che avrà molti difetti ma sicuramente è dotato di ironia, ha sorriso quando si è levato un boato sulla Salerno-Reggio Calabria, perché è veramente l'incompiuta per definizione sto cavolo di terza corsia. Ricordo un'allora nel 96 l'allora numero uno del PDS D'Alema dire bisogna chiuderla, completare, insomma non si riesce a completare. Detto ciò, hai notato che la maggior parte di queste opere sono rivolte al sud? Certo, l'ho notato e non mi sembra casuale. Direi che ha praticamente fatto un elenco di opere al sud, perché dal punto di vista politico Berlusconi ha bisogno ovviamente dei voti del nord, ma ha anche bisogno dei voti del sud. Quindi questo credo che sia un discorso rivolto agli alleati o agli ex alleati che sono eletti nel Mezzogiorno, e quindi ho trovato, diciamo, dal suo punto di vista, diciamo, coerente con le sue aspettative questo discorso. Dal punto di vista invece diciamo così pratico, io avrei evitato ogni riferimento, diciamo, a quelle che sono le incompiute storiche di questo paese, sì, tipo quella della Salerno Reggio Calabria, e voglio dire, da questo punto di vista nel discorso non ho trovato alcuna novità. Sono tutti discorsi che sono riferibili al futuro, sappiamo le cose come vanno in Italia, e finora le cose non hanno camminato né con i governi di centrosinistra né con i governi di centrodestra. In molti casi alcune cose sono state fatte, ma altre, tipo la Salerno-Reggio Calabria, il problema è ancora insoluto. Sì, tra l'altro io ricordo, insomma, cosa succede, perché il ministro Tremonti deve tenere botta sui conti pubblici. Allora cosa succede? Che il CIPE delibera lo stanziamento come interministeriale per la programmazione economica di 6 miliardi, erano 3 più 3, vado a memoria, di opere pubbliche, poi però vengono effettivamente dati solo 60-70 milioni, cioè tu hai in teoria il finanziamento, però poi i soldi non escono dalla cassa. Ecco perché poi le opere si bloccano. Perché non escono dalla cassa? Perché appunto il deficit viaggia al 5%, ragazzi, tutto si tiene. Detto questo, è chiaro che il riferimento alle opere infrastrutturali del sud è contro il timore che i finiani prendono voti al sud, i lombardiani prendono voti al sud, poi c'è anche Miccichè che si è messo a fare le bizze. Ti chiederei in estrema sintesi però un commento finale, poi tra poco ci sarà la replica dell'opposizione verso 18:10, 18:15 e Bersani, verso le 21:20, 21:15 dovrebbe arrivare l'esito del voto di fiducia perché è chiamata nominale. Il commento complessivo, in un programma di, diciamo, di economia si parla anche della tenuta del governo. Ma è stato un passaggio, diciamo, non particolarmente carico di novità, almeno fino a questo punto. Non esiste alternativa a un momento politica a questo governo, mi pare che tutti ne abbiano preso sostanzialmente atto, che esca rafforzato strutturalmente fino ad arrivare alla fine della legislatura, io avrei molti, molti dubbi. Quindi non vorrei che tra qualche giorno si ricomincia da capo con le tensioni e le lite interne alla maggioranza di governo, tenuto anche conto che è stato, diciamo, proprio oggi annunciata la costituzione del partito dei Finiani. Quindi credo che questo non aggiunge, diciamo, stabilità al quadro politico. Vabbè, speriamo anche noi che non si torni con le liti. Noi per fortuna ci occupiamo di altro in questo caso, per cui possiamo anche tranquillamente non seguirle. Grazie a Guido Gentili, editorialista sulle 24 ore, di questo anche direttore. Grazie a voi. Allora, vedo che alcuni non perdono il senso dell'umorismo. Il ponte tra Savona e Ajaccio volete, altri vogliono il ponte tra la Sardegna e la Sicilia, tra Sardegna e il continente. Andiamo avanti, adesso parliamo di borsa, meno 0,80%, ancora sulle grandi opere e i dati sull'evasione torneremo più avanti, vedo molti molti messaggi su questo. Insomma, il giudizio che ha dato adesso Guido Gentili mi sembra assolutamente condivisibile, non c'è un elemento nuovo, c'è la richiesta di una fiducia, tutto da vedere se questo poi permetterà al governo di arrivare a fine legislatura con in maniera diciamo fisiologicamente tranquilla. Vedo che molti scrivono anche dell'opposizione, che insomma, se è pensabile che un'opposizione non chieda le elezioni con una tensione così forte nella maggioranza, se non chiede le elezioni vuol dire che non è pronta. Traffico. Focus economia. Non possiamo continuare a parlare dell'intervento di Berlusconi, adesso sentiremo anche alcuni passaggi dell'intervento dell'opposizione, del leader del PD Bersani. Dobbiamo fare adesso la borsa, poi torneremo anche sui temi economici a carattere europeo, i mercati. Meno 0,80% Milano, meno 0,70% Parigi, meno 0,5% Francoforte, meno 0,1% Londra. E anche in questo momento l'America. La vera notizia in questi giorni la fanno le valute e i metalli preziosi a partire dall'oro, perché l'euro è 1,36,3, di nuovo forte sul dollaro, dollaro debolissimo, dollaro che ha raggiunto un nuovo minimo storico nei confronti del franco svizzero oggi, e l'oro ha toccato un nuovo record, 1313 dollari l'oncia. Così come l'argento resta fortissimo. Per cui, detto questo, qualche caso di borsa c'è, a partire dal Banco Popolare, che dopo essere stato criticato, penalizzato dall'agenzia di rating Moody's ieri, oggi perde un altro 4,1%, ma va male anche la Popolare di Milano, meno 4%, e tutti i bancari, UbiBanca meno 2,4%, Unicredit meno 1,70%, Intesa meno 1,5%, E poi Monte dei Paschi meno 1,3%, Intesa San Paolo, mi raccomando. Eleonora Micheli, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Banco Popolare e i bancari. Sì, i bancari sono andati male non solo a Piazza Affari, ma in tutta Europa. Il sottoindice del settore ha perso l'1,5% e ha accusato la peggiore flessione del vecchio continente. Per quanto riguarda Piazza Affari, come hai detto tu, è andato particolarmente male il Banco Popolare, che ha risentito ancora del giudizio di Moody's Moody's sulla solidità finanziaria dell'istituto. Giudizio che ha dato il là poi a una serie di voci su un eventuale aumento di capitale di cui avrebbe bisogno l'istituto. Ci sono state anche ipotesi di stampa che i manager del gruppo stiano appunto riflettendo su questa operazione. Da lì l'ira di Saviotti. Il Banco Popolare non ha commentato, ma rammentiamo che solamente una settimana fa proprio il consigliere delegato Saviotti aveva detto che almeno per ora non è in vista un'operazione sul capitale. C'è una notizia invece che riguarda la Popolare di Milano, perché lì è un po' più delicata l'informazione. È stata data proprio dal Radio Coro ieri sera, e in particolare c'è una nuova ispezione di Banca Italia presso l'Istituto Milanese. In verità questa ispezione è stata definita di routine ed era tra l'altro già stata annunciata da tempo. D'altra parte il mercato in questi casi reagisce sempre con nervosismo, in questo caso ha punito i titoli della Popolare di Milano con questo ribasso del 4%. Allora, in calo invece Enel, che oggi ha deciso il dividendo da 10 centesimi di euro per azione, no? È un acconto sul dividendo del 2010. Sì, un acconto sul dividendo che è esattamente in linea con l'acconto che era stato distribuito l'anno scorso, ma che è stato giudicato deludente dal mercato che si aspettava almeno 0,11 euro. E quindi appunto da lì il calo delle azioni che hanno perso oltre l'1%. Ancora, diamo qualche titolo positivo. Allora, Saipem più 2,30, Pirelli più 0,60, Prismian mezzo punto percentuale, Fondiaria più 0,20 come Eni. Migliori e peggiori, PMS più 7,80% anche oggi, Buongiorno più 7,1%, Dada più 3,80%, Cairo Communication più 5,70%, caso opposto Pininfarina meno 5,60%, Gabetti meno 5,40%, Risanamento meno 5,2%. Novità sul risanamento e se vuoi comunque anche Exprivia. No, ieri c'è stato il via libera di risanamento al piano di ricapitalizzazione. A fine ottobre ci sarà l'assemblea sulla ripatrimonializzazione da 150 milioni di euro, e quindi ovviamente i titoli hanno pagato questa notizia. Per quanto riguarda Exprivia invece c'è una notizia: la società ha vinto una commessa da 15 milioni di euro che verrà poi ripartita in 3 anni, ma la borsa ha ovviamente premiato le azioni. E poi il recupero di Pirelli, dicevamo dopo il calo di ieri in scia con i dati Michelin, ma ne abbiamo parlato ieri. Grazie a Eleonora Micheli, dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, il GR con un'ampia pagina politica, poi alcuni passaggi dell'intervento diretto di Bersani, leader del PD, e le nuove regole molto severe sui conti pubblici approvate oggi a Bruxelles. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. ...18:10, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora adesso agganceremo, da un punto di vista tematico, quanto detto dal Presidente del Consiglio, che abbiamo in parte riassunto, mi riferisco solo agli elementi di carattere economico, con quello che è successo quasi in contemporanea con Bruxelles, a Bruxelles, dove è passato il documento della Commissione europea con misure molto più rigide sui paesi che non rispettano i conti pubblici, che non fanno scendere il debito, che aumentano i deficit e quant'altro. Prima di tutto però, come promesso, vi facciamo ascoltare l'intervento del segretario del PD Pierluigi Bersani, che si è praticamente appena concluso. Questo è uno dei passaggi principali. Signor Presidente del Consiglio, è la seconda volta in 28 mesi che lei interviene alla Camera. La prima volta fu per l'insediamento. Concluse allora il suo discorso con uno squillante «Viva il Parlamento!». Da allora non l'abbiamo più sentita qui. Ci ha mandato 36 voti di fiducia, 54 decreti. Abbiamo vissuto in questi 2 anni l'epoca gloriosa del che pensi mi, con risultati che sono sotto gli occhi. Lei allora fece una promessa fondamentale in quel discorso, e sì che, come ha ricordato, aveva chiaro che avevamo la crisi davanti. La promessa era crescita. Disse una 20ina di volte la parola crescita. Vorrei informare che noi abbiamo avuto il calo più grande della storia del dopoguerra, un calo nella crisi quasi doppio rispetto agli altri principali paesi europei. Il fatto nuovo che vorrei farle considerare è che noi ci stiamo staccando per la prima volta nella nostra storia recente dal gruppo di testa dei paesi europei. Allora, come si fa a prendere sul serio quel che è venuto a raccontarci oggi? Mi lasci dire, un discorso molto debole, pieno di promesse risapute. Non c'era un fatto nuovo nel suo discorso. Promesse che non arrivano mai, promesse che marciano sulla Salerno-Reggio Calabria. Mi ricordo il 2001, ci volevano 3 mesi per farla partire, poi si disse che sarebbe partita il 2006, impariamo adesso che parte al 2013, ci tenga aggiornato. Qual è il punto di fondo al di là delle battute? Il punto di fondo è questo, che nelle sue parole non c'è comprensione della situazione di questo paese qui. Non c'è l'Italia, quella vera. Così poco fa, pochi minuti fa, Pierluigi Bersani rispondendo o replicando ad alcuni degli interventi che abbiamo fatto ascoltare del Presidente del Consiglio. Due quelli principali per quello che riguarda, adesso arriviamo all'Europa, tranquilli tutti, due quelli principali per quello che riguarda l'aspetto delle politiche economiche, uno quello sulle tasse, e quello diciamo, possiamo già anche noi sintetizzarlo, ve l'abbiamo già fatto ascoltare, ha detto che arriverà il calo delle tasse entro la fine della legislatura. Questo per quello che riguarda l'aspetto fiscale, senza aumentare il deficit. Berlusconi sul deficit ha detto: attenzione, non crea crescita ma solo disuguaglianze. E poi il passaggio, cui faceva più riferimento forse anche Bersani, sugli investimenti infrastrutturali. Risentiamo. Nei prossimi 3 anni saranno investite nel Mezzogiorno le risorse per circa 21 miliardi di euro, pari al 40% degli investimenti complessivi in tutta Italia, raggiungendo nel 2013 alcuni risultati importanti. Ne cito qualcuno: il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ci sono lavori in corso per sopperire alla carenza di iniziative che si è verificato durante 5 anni dei governi della sinistra. Il sostanziale avanzamento di opere quale l'autostrada Telesina, l'asse autostradale Ragusa-Catania, la superstrada Ionica 106 e il raddoppio della superstrada Agrigento-Caltanissetta, le statali Olbia-Sassari e Carlo Felice, la rete metropolitana campana. Entro dicembre sarà pronto il progetto esecutivo del ponte sullo stretto di Messina. Questo per quello che riguarda, diciamo, la prima parte dell'intervento di Berlusconi, perché poi nel pomeriggio il Premier ha replicato al dibattito, è previsto da tutto, diciamo, lo svolgimento dei lavori, ed è intervenuto su un punto che sarà poi il prossimo oggetto di questo programma, e mi riferisco a quanto deciso oggi da Bruxelles, ossia via libera alla riforma del patto di stabilità che lega i paesi che aderiscono all'euro e li vincola con sanzioni che a questo punto diventano anche molto più strette se si sfora sui conti pubblici, sul deficit e quant'altro. Sentiamo un passaggio nella replica di Berlusconi riferito proprio alla richiesta di modifica del Trattato di Maastricht, richiesta che, di cui si sta discutendo in sede europea. Io come Presidente del Consiglio italiano, nella penultima riunione del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, ho insistito per portare a modifica del Trattato di Maastricht. È stato accettato, e quindi nel valutare un sistema economico non si guarda soltanto al debito pubblico. Sappiamo che noi abbiamo ereditato un debito pubblico che si è elevato anche ultimamente, perché essendo diminuito il PIL è aumentato il numeratore. Il debito pubblico si dovrà aggregare anche al debito risparmio dei privati. Facendo questo, noi abbiamo la fortuna di avere magari uno Stato indebitato, ma le famiglie italiane che sono in gran parte benestanti. Noi risultiamo addirittura davanti a paesi come la Gran Bretagna, la Francia, la Svezia, secondi in Europa soltanto alla Germania. E questo è molto importante, perché se noi avessimo continuato ad avere come metodo giudizio sul nostro Paese soltanto il debito pubblico, saremmo incorsi in pesanti sanzioni da parte dell'Europa. Questo è il passaggio riferito all'Europa. Allora, di Europa parliamo con Antonio Poglio Salimbeni, corrispondente dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore da Bruxelles. Antonio, buonasera. Per voi. Una battuta, perché devo mandare il traffico e poi ne parliamo più ampiamente. Ma a Bruxelles è passata, perché forse mi sono perso io qualche agenzia, la linea per cui si vanno a sommare i debiti privati o i risparmi privati con il debito pubblico, cosa che avvantaggerebbe non poco l'Italia? No, veramente no. Il Presidente del Consiglio parlava di modifica del Trattato di Maastricht. Non viene modificato, non viene riaperto il vaso di Pandora del Trattato di Maastricht. In ogni caso il debito privato sarà tenuto in considerazione nella valutazione del debito pubblico, che però dovrà ridursi a un ritmo soddisfacente. Per capire, se no non capisco più io. Allora, non è passata la linea che voleva l'Italia di sommare debito privato, debito pubblico e risparmi privati e vedere cosa viene fuori? Perché alcuni... la risposta è semplice, le cose non stanno così. Ok, perfetto, traffico e poi ne parliamo. Focus Economia. Le proposte che presentiamo oggi sono un grande passo in avanti in tema di governance economica dall'adozione del patto di stabilità e crescita. Le proposte sono molto importanti, innanzitutto perché allargano e approfondiscono il sistema di governance. Rafforziamo in modo sostanziale il patto di stabilità e crescita e allarghiamo la sorveglianza fino a coprire squilibri macroeconomici. Secondo, le proposte sono molto ambiziose. Per la prima volta ci rivolgiamo in modo deciso al braccio preventivo del patto. Per la prima volta proponiamo che le sanzioni siano attivate anticipatamente rispetto al passato. Infine, le proposte sono direttamente e immediatamente applicabili agli Stati. Considereremo sullo stesso piano i debiti e i deficit eccessivi. Per un maggiore coordinamento delle politiche di bilancio, proponiamo requisiti minimi, in modo che gli Stati siano in linea con gli obblighi del patto. Il messaggio è chiaro: tireremo il freno a mano prima che la macchina cada giù dalla rupe. Allora, avete appena sentito il Presidente della Commissione Europea, Barroso, tratteggiare le linee guida di questa riforma, che prevede, da un lato, poi adesso Antonio Poglio Salimbeni ce lo spiegherà meglio, che le sanzioni per i paesi che aderiscono all'euro non arrivino solo quando il deficit, cioè la somma delle entrate e uscite di uno Stato ogni anno, quando ci sono più uscite che entrate, si chiama deficit. Dicevo, non solo si va a sanzionare i deficit come è avvenuto nei primi anni dell'euro, ma anche il debito, che è la somma di tutti i deficit più gli interessi che si pagano su questo, come una famiglia che un conto è chiudere in rosso un anno e un conto è aver accumulato tanti rossi più interessi bancari. E questa è la prima riforma, debito e deficit. Secondo aspetto, le sanzioni non saranno più successive come avveniva, cioè dopo un po' di anni si va a esaminare cosa è successo, si dà una sanzione su un deficit, un debito che ormai appartiene a 2-3 anni fa, ma possono scattare in maniera preventiva. Antonio Poglio Salimbeni, ci ha azzeccato? Sì, è esattamente così. Intanto, per quanto riguarda il debito, le cose stanno in questo modo. Quando la Commissione Europea e l'Ecofin dovranno valutare se aprire o meno una procedura per deficit eccessivo, cioè superiore al 60% del prodotto lordo, tanto per dare un'idea, debito eccessivo. Continuerà a chiamarsi procedura per deficit eccessivo, si rivolgerà sia al deficit eccessivo sia al debito eccessivo. Ecco, quando si tratta di valutare il debito, questa valutazione non sarà automatica, ma terrà conto dei cosiddetti fattori rilevanti, che possono essere verificare se la crescita nominale molto bassa colpisce, ostacola, rende difficile la riduzione del debito, fattori di rischio legati alla struttura del debito, alla scadenza oppure alla denominazione in valuta, e l'indebitamento del settore privato, per quanto concerne però l'impatto che ha il debito privato sul bilancio pubblico. Ecco, allora vediamo di capirci, perché sono qua. Il Presidente del Consiglio nella replica ha fatto notare come l'Italia abbia portato avanti, ed è vero, una linea per cui si voleva che oltre al debito pubblico pesassero anche i debiti privati o i risparmi privati. Perché questo? Perché lo sappiamo tutti, l'Italia è ancora un paese che riesce a risparmiare molto rispetto alla Francia, alla Spagna, alla Gran Bretagna, e quindi se noi mettiamo assieme il segno meno del nostro debito e il segno più del nostro risparmio, otteniamo che, diciamo, sommando la componente privata e quella pubblica, noi abbiamo un debito che è al 316 del PIL, mentre la Francia ce l'ha al 318, quindi più alto, e anche la Spagna ce l'ha più alto, al 360, solo la Germania è meglio di noi, e quindi faceva il gioco dell'Italia. Tu dici, non è passata in questa formula, è passata all'interno delle valutazioni, diciamo, ambientali, capire appunto come è fatto il tuo debito, cioè tutto in mano a banche irlandesi, forse non è il massimo, quanto cresce il tuo PIL, perché lì si riesce a capire anche come riesce a recuperare il debito e quant'altro. Allora, esattamente, nessuno qui sta discutendo, anche se l'Italia avrebbe voluto, ma questa certo. linea non è passata, diciamo, vari mesi fa, parlare di un parametro debito che mette insieme che sommi debito privato e debito pubblico, o debito pubblico. D'altra parte il Trattato di Lisbona, il Trattato europeo ci impedisce di fare una cosa del genere. Quindi di questo non si sta discutendo, si sta discutendo. Cioè la proposta è di valutare in termini qualitativi la sostenibilità del debito pubblico alla luce di una serie di fattori. Tra questi fattori c'è anche il debito privato. Naturalmente è meglio avere un paese con basso debito privato che in teoria potrebbe fronteggiare un default, un fallimento a causa del debito pubblico. Ma le cose stanno in questi termini, si tratta di una valutazione qualitativa che va insieme al vincolo, se passa sì. Questa è la proposta della Commissione, che prevede di ridurre la differenza fra il 60%, che è il valore di riferimento, e il 118% nel caso dell'Italia, di ridurre questa differenza di un ventesimo all'anno. No, questo l'abbiamo già spiegato ieri, su questo ci sarà uno scontro, perché è inimmaginabile che l'Italia paghi 130 miliardi di riduzione del debito in 3 anni e la Francia 80 miliardi, ma questo, diciamo, era un po' il tema di ieri. Oggi mi interessava più legarlo anche a quanto ha dichiarato il Presidente del Consiglio Berlusconi. Alcuni di voi ci chiedono al 349-238-6666 perché non si possono mettere assieme risparmi privati e debito pubblico, perché, voglio dire, a meno che non decidiamo che si possono utilizzare gli risparmi privati per sanare il debito pubblico, è come mettere assieme pele con le mele, fermo restando che è importante che in un paese che magari ha un alto debito ci siano dei buoni risparmi, perché si capisce la solidità del paese. Grazie Antonio Poglio Salimbieni, in collegamento con noi da Bruxelles. Grazie a voi. Non ho dimenticato il nostro sondaggio, in effetti non ne ha parlato di ministro allo sviluppo economico il Presidente del Consiglio, c'è stato un accenno su questo. Noi continuiamo invece, finché non arriverà il nome, sono 148 giorni che manca il ministro dello sviluppo economico, continuate a votare. Una classifica che sta diventando interessantissima, non la posso svelare, anche perché sarebbe fonte di imbarazzo in alcuni casi, poi la sveleremo nella parte finale. 349-238-6666 per i vostri sms. Osservo con piacere che sono terminati gli sms, diciamo quelli più ironici. Giuseppe Cruciani, ci sarà il ponte sullo stretto, che insomma è un tuo grande cavallo. Letto Berlusconi, un grande cavallo di battaglia, assieme alla Senna Reggio Calabria, a dicembre il progetto attuativo. Ma non è una novità, cioè, il ponte sullo stretto è un'opera già messa in cantiere, avviata, quasi avviata, non è una grande novità. Beh, questo è un po' ricalca quello che ha detto Bersani, poche novità nel discorso di Berlusconi. Allora, di cosa ti occuperai oggi? Naturalmente il discorso di Berlusconi, il quale ha negato che ci sia stata compravendita di parlamentari, Direi basta sul Ministero dello Sviluppo Economico. In realtà ha detto un'altra cosa: ho lavorato tutto agosto, non so se avete fatto ascoltare questa parte. No, abbiamo fatto ascoltare che non era economico. Male. Adesso ho lavorato tutto agosto e ho firmato 300 provvedimenti, per cui forse non c'è bisogno di un ministro, non c'è bisogno forse nemmeno del sondaggio. Ma devo dire una cosa la posso dire sul sondaggio, che alcuni hanno votato svela, anche... Svela chi è in testa. No, neanche sotto tortura in questo momento, alcuni hanno votato proprio Berlusconi stesso, per cui anche l'assenza del ministro si risparmiano soldi, dicono alcuni. Vabbè, l'unica piccola infrazione alla regola che ci eravamo dati. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Buona serata a tutti, da Sebastiano Barisoni. Radio 24, la passione si sente.